voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. So Bubba was from Biolabatry, Alabama, and his mama cooked shrimp. And her mama before her cooked shrimp. And her mama before her mama cooked shrimp too. Bubba's family knew everything there was to know about the shrimping business. I know everything there is to know about the shrimping business. Matter of fact, I'm going into the shrimping business for myself after I get out the army. Okay. Che album che hanno fatto, veramente. Un grande album dal titolo Choose a Bright Morning, uscito originariamente nel 2006 per Drowning Sound e poi ripubblicato in Italia nel 2007 grazie alla Midfinger, ed è un grazie, un vero grazie quello che va all'etichetta italiana per averci fatto conoscere Jennifer Ever, che tanto ho trasmesso con The Sound of Beating Wings e che da qualche settimana a questa parte, forse questa è la seconda, con From Across the Sea, il brano che si è appena chiuso per la band di Uppsala in Svezia. Invece la prima parte di Eclettica si era chiusa con Khan, di cui da un po' di tempo stiamo ascoltando il nuovo album, e prosegue con The Ladybug Transistor con l'aiuto alle voci di Ian Sleckman. Here Comes the Rain. Era una bella giornata di sole. Quando il professore di lettere al liceo leggeva un simile attacco, tirava una riga rossa su tutti e quattro i fogli di protocollo e in calce apponeva la sigla NDDL, non degno di lettura. Non erano solo i riferimenti alla meteorologia a suscitare stroncature, ma anche i luoghi comuni e le frasi fatte. Alla folla non era concesso di straboccare, né ai paesi di essere ridenti. Il campo di grano, presentato come lago dorato, provocava una sottolineatura che talvolta bucava la carta. La prosa doveva essere essenziale e lontana dalla retorica. L'implacabile insegnante non dava voti. In compenso, i commenti erano micidiali. Ricordo il più basso della scala. Questo è l'italiano parlato nel Turkmenistan. Questo era l'incipit del mio amico Abdul, di Raffaele Mangano. When I'm lost on the road, you know you can set me free.

touch or rent your home, sweet homeless. It almost killed me and I didn't even notice it. I'm in no rush, I'm in no rush. Oh, why, feel a change, I'm becoming no love again. I'm in command of my own fate. I can depend on destiny if it's safe. Come alive, come alive with me. Oh, dead life away, rise from your grave. Dead life away, a dead life. Rise from your dead. Dopo esserci riascoltati Two Gallants, band che lascia sempre il segno quando passa, e una traccia evidente sono i mail che arrivano per chiedere ulteriori informazioni. Dopo esserci ascoltati Two Gallants con un estratto dall'EP che anticipa un nuovo album che dovrebbe essere pronto per la seconda metà dell'anno, ci siamo invece ascoltati una formazione canadese. Loro provengono da Halifax, Nova Scozia, si chiamano Dog Day, un quartetto, due uomini, due donne, che incide per Tom Lab, Oh Dead Life è il titolo del pezzo appena ascoltato. E si prosegue invece con le atmosfere fra l'elettronica e il folklore che provengono dalla Sicilia, terra degli Unaddare, all'esordio con l'album dal titolo Calza. Cavolo di mare, che aspetta uso sole, cavolo. Guardava e riguardava i dati, incredulo e stupefatto. Comparava le informazioni che giungevano dal pioniere alle simulazioni fatte dal laboratorio virtuale sulla base delle numerose esplorazioni spaziali. Gli scarti fra le due classi di valori erano davvero irrisori. Sembrava che quanto si era supposto trovasse riscontro nella realtà. Troppo presto per spingere in avanti l'immaginazione e la speranza. Ma il pioniere non sbagliava di certo. Dunque, l'enigmatico pianeta dai riflessi azzurrati, il terzo del sistema che avevano raggiunto, era circondato da un'atmosfera di azoto e ossigeno. Questo era l'incipit dell'Ultimo Terrestre di Raffaele Mangano. I'll tell you. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 34, volume numero 4. Indice, Bar, Montag con Final Fantasy, Peppe Foltarelli, Hot Chip, Black Eyed Dog, Urlaub in Poland, Can, Jennifer Ever, The Ladybug Transistor, Two Gallants, Dog Day, Un Addare, Cat City.